si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì, può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati dalle 7.30 sino alle 10 il sabato, domenica dalle 8.30 sino alle 11 l'orario, la rassegna stampa, la lettura dei giornali, poi gli approfondimenti di Si può fare e anche le buone notizie. Iniziamo subito con una good news. And now the good news! E oggi non c'è bisogno di andarle a cercare lontano, siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, la seconda vita di Erasmus, più fondi e viaggi fino a 30 anni, finanziamenti in rialzo del 40%, sembrava che dopo 25 anni dovesse soccombere per mancanza di fondi, invece il programma Erasmus per studiare all'estero in Unione Europea è rinato, più attento all'occupazione giovanile, con 5,6 milioni di under 25 che non hanno un lavoro in Europa. Gli europarlamentari hanno deciso così che dal 2014 al 2020 almeno Erasmus ci sarà di nuovo, rivolto ai giovani dai 13 ai 30 anni, quindi sale anche l'età disponibile. Questa è sicuramente una buona notizia. E vi ricordo subito anche i nostri contatti, se volete scriverci, la mail si può fare radio24.it, se volete interagire in diretta con noi su Facebook si può fare /radio24, il nostro account su Twitter è @si può fare24, il mio @ Ale Maurizi, sempre in cerca di buone notizie, mandatecele e più avanti tra l'altro vi chiederemo anche che cosa ha reso più bella la vostra settimana all'800 24 00 24, ma più avanti, e si vincono anche i biglietti per la mostra di Munch. Allora andiamo sui giornali, dicevamo, prima pagina del Corriere della Sera, il titolo principale è un titolo economico, rincari per togliere l'IMU per la tassa sulla copertura anche della benzina, Saccomanni, la manovra non cambia, poi letta all'Unione Europea, troppo rigore, Berlusconi non è più un pericolo, queste le parole di ieri sera di Letta a Berlino. C'è spazio, parleremo di economia anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, c'è spazio anche per il titolo su Genova, bus fermi e rifiuti, le quattro giornate di Genova nel caos, la protesta contro la privatizzazione, in piazza anche il leader del Movimento 5 Stelle, si tratta nella notte per un accordo e nella notte, se avete sentito anche GR24, lo sapete, l'accordo, un accordo c'è stato, vedremo se terrà, però insomma in via cautelativa lo sciopero credo che stia andando avanti a Genova, adesso non lo so, comunque c'è un accordo, vedremo se tiene. Qual è il quadro che delinea il Corriere della Sera a proposito del mondo dei trasporti in Italia, di cui ci siamo resi conto dopo queste proteste, soprattutto a Genova? Esuberi e disservizi, il trasporto locale al tracollo, la protesta dei lavoratori dell'AMT che sta paralizzando la città, scoperchia un vaso enorme, scrive il Corriere, la crisi del trasporto pubblico locale, tra bilanci dissestati, personale in esubero, disservizi, evasori e troppe deroghe, le aziende rischiano il collasso, già 3 sono fallite in Campania, l'ATAC di Roma è vicina al fallimento, secondo il sottosegretario dei trasporti De Angelis, di 1140 aziende pubbliche e private, che sono tantissime, il 43-44% è tecnicamente fallito. E vediamo anche in questo schema sintetico che riporta il Corriere il rapporto tra il costo dei biglietti e il numero di il personale, ma anche i bilanci, ci sono situazioni completamente diverse, si va tra biglietti che costano un euro come a Bari o a Potenza o all'Aquila, biglietti che costano 1,60 euro come accade a Genova per esempio, dove però manca ancora il pareggio di bilancio. L'azienda dei trasporti messa peggio è Roma, naturalmente meno 177 milioni di buco. A proposito di questo, c'è un'intervista a Piero Fassino, il sindaco di Torino nonché presidente dell'ANCI, sulla Stampa, che dice: tempi cambiati, mercato e privati sono indispensabili. Dice Fassino: sono finiti i tempi in cui si poteva pensare che un'azienda pubblica, solo perché erogava un servizio per i cittadini, potesse vivere sempre in perdita accumulando passivi. Aprire le aziende alla partecipazione dei privati, applicare le regole di mercato e abbandonare l'idea che in nome dell'erogazione di un servizio pubblico qualunque costo sia accettabile è l'unica strada percorribile. Che cosa bisogna fare? dice Fassino. Il sistema delle aziende partecipate va riorganizzato per rimediare a certi limiti. Il primo è la sua estrema polverizzazione. In Italia ogni comune, o quasi, ha le sue aziende, ce ne sono troppo. All'estero invece le società nate a livello territoriale si sono aggregate, l'abbiamo sentito dire mille volte questa cosa, però poi si continua a non fare, dice Fassino, si sono aggregate e oggi sono efficienti, hanno una massa finanziaria adeguata per fare investimenti. Già, perché per gestire un'azienda dei trasporti bisogna fare degli investimenti, no? Sui mezzi, rinnovare il parco mezzi, altrimenti ci sono dei costi di manutenzione altissimi. Poi ci sono anche tutti i sistemi di geolocalizzazione che costano e naturalmente se ognuno fa per sé i costi aumentano. Dalla prima pagina di Repubblica cambiamo argomento, scontro finale sulla decadenza, Grasso voto su Berlusconi il 27 novembre, Alfano invece insiste, aspettiamo prima la manovra. La questione sulla data per il voto per la decadenza del senatore Silvio Berlusconi è già stata dichiarata chiusa, ha detto ieri ancora una volta il presidente del Senato Pietro Grasso, ma gli ex del PDL attaccano. Parole insufficienti, dicono ci sono state violazioni per un slittamento anche Alfano, prima la manovra, la decadenza invece può aspettare. Rivolta degli autobus Genova in ginocchio, la foto anche sulla prima pagina di Repubblica, dove c'è anche il titolo sul caso Ligresti la Russa, scoppia il caso dei soldi alla Russa, nei verbali i legami con la Cancellieri. Repubblica ha intervistato l'ex ministro Ignazio La Russa che ha preso soldi dalle aziende, dalla famiglia Ligresti, tanti anni, tra il 2009 e il 2010 in particolare, 450.000 euro lui, quasi un milione di euro considerando anche la sua famiglia. Il dubbio è che da ministro poi abbia riservato un trattamento di favore ai Ligresti, che sono dentro a mille affari italiani. E dice La Russa, io ho iniziato a lavorare con Ligresti negli anni 70, addirittura mi sono dovuto trattenere, se avessi voluto fare il loro avvocato del gruppo, l'avvocato del gruppo Ligresti, avrei guadagnato 100 volte di più che fare il deputato. Ma sembrano pochi 450.000 euro in due anni? Ho rivisto tutte le carte, si tratta di circa 300 pratiche da poco più di 1.000 euro l'una. Con quei soldi ci si paga a stento gli avvocati che ci lavorano, anche perché io sono impegnato a fare altro. Uno sguardo velocissimo alla prima pagina del Sole 24 Ore, col titolo economico Italia dall'Unione Europea sì con riserva. I ministri delle finanze dell'Eurogruppo hanno accolto positivamente le misure annunciate dal governo italiano per ridurre il debito, anche se per il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn servono risparmi strutturali e permanenti. Il ministro Saccomanni però è soddisfatto, ritiene superato un test importante, ripresa a partire da fine anno. Ci fermiamo qua per questo primo momento, per questa prima lettura dei giornali di oggi. Adesso spazio ai giornali europei, poi c'è il giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo. La ricetta è che chiunque sappia una lingua straniera si iscriva a una specie di associazione, insegni ad altri la lingua che sa e riceva l'istruzione di una lingua da un altro che sa un'altra lingua. In questo modo raddoppieremmo quelli che sanno lingue straniere senza nessuna spesa. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. Rassegna stampa Europa. Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa europea da Giulia Crivelli, buon sabato. Oggi parliamo di argomenti che abbiamo già trattato in passato e che inevitabilmente tornano. Il primo articolo che vi segnalo è un articolo sulla Grecia, è stato pubblicato da Financial Times proprio ieri, il titolo è Se la Grecia dice no. E l'autore, Peter Spiegel, si domanda e ci spiega che finora il governo greco ha obbedito controvoglia alle richieste della Troica, ma con un'opposizione sempre più dura, sappiamo tutti quali disordini anche ci sono stati in Grecia, e una maggioranza ormai al minimo, potrebbe presto decidere di disobbedire. E quindi scrive in questo articolo pubblicato da Financial Times che succede se un paese che ha ricevuto un bailout alla fine decide di rispondere no? Questa è la domanda che alcuni funzionari della Troica, dei prestatori internazionali, ha iniziato a porsi al riguardo della Grecia. La coalizione di governo, dopo oltre un anno in carica, contrassegnato da un'ostinazione crescente nei confronti della richiesta di riforme, continua a ripetere che non accetterà oltre misure di austerità. Sotto molti punti di vista, scrive ancora Financial Times, la Grecia ha perduto la sua capacità di sorprendere. Quasi tutto il suo indebitamento è di proprietà dei suoi salvatori ufficiali, i governi europei, le istituzioni della zona euro e il Fondo Monetario Internazionale. Ciò significa che il mercato finanziario in genere le presta scarsa attenzione. E forse, appunto, conclude Financial Times, attenzione, perché per quanto siano magari altri a tenere le leve del portafoglio di un paese, poi quel paese ha comunque una sua composizione politica interna, un suo governo, e non vanno sottovalutati i malumori della popolazione quando vengono applicate queste misure di austerità estrema. Ma passiamo, visto che parliamo proprio di austerità, a un altro quotidiano, questa volta francese, Libération, sapete, un quotidiano decisamente di sinistra, che titola «Austerità, la fine di un dogma». Forse l'avrete sentito, se ne è parlato un pochino anche sui nostri quotidiani. C'è uno studio curato dall'economista della Commissione europea, quindi non un eretico che non c'entra nulla con le istituzioni europee, ma appunto un economista della stessa Commissione, che sapete è un po' il governo dell'Unione europea. E secondo questo studio, le politiche di risanamento di bilancio adottate in Europa negli ultimi anni hanno avuto effetti negativi sulla crescita e l'occupazione. Vi suona familiare? È l'argomento anche in Italia di tanti anti-europeisti o comunque semplicemente di persone che non condividono fino in fondo questa linea di queste misure di austerità, che naturalmente vengono continuamente chieste anche a noi, anche all'Italia. Quindi scrive Libération, mentre la Francia ha perso il 4,8% di crescita accumulata tra il 2011 e il 2013. Il triste record di perdita di ricchezza spetta, guardate un po', alla Grecia. Nello stesso periodo, cioè 2011-2013, l'austerità inflitta ad Atene ha provocato una perdita di crescita del 0,5%. Italia, Spagna e Portogallo avrebbero perso rispettivamente l'equivalente del 4,9, 5,4, 6,9% del PIL. E persino la virtuosa Germania avrebbe perso delle penne, scrive Libération, per la precisione il 2,61% del PIL. Naturalmente questo è un dibattito, io ricordo quando studiavo economia il dibattito tra appunto stimolare la crescita anche a costo di aumentare il debito dello Stato oppure invece cercare di tenere basso il debito dello Stato, e in questo caso uno degli effetti, secondo per esempio questo studio, è appunto una paralisi della crescita. Sicuramente parleremo ancora di questi temi, perché poi l'economia non è una scienza perfetta, tutt'altro, quindi è un po' è questione di dati, ma anche di opinioni e soprattutto di interpretazione dei dati. Passiamo a un altro argomento che però è sempre molto di attualità, lo è stato in questa passata settimana. L'articolo che vi cito, grazie a una traduzione curata da Press Europe, che è la sezione del sito di internazionale che offre a tutti noi gratuitamente questo servizio di traduzione degli articoli di tantissimi giornali europei. Ecco, questo articolo è apparso sul quotidiano Den, che è un quotidiano ucraino, quindi sicuramente io non sarei in grado di leggerlo. Gigi Donelli forse sì, perché sa un po' di russo. In ogni caso l'articolo si intitola «La pausa è pericolosa». Naturalmente il riferimento è alla decisione del governo ucraino di rinunciare alla firma di un accordo di associazione con l'Unione Europea in occasione del partenariato orientale di Vilnius del 28 e 29 novembre, che quindi ci deve ancora essere. Però questa è una decisione annunciata. L'Ucraina preferirebbe probabilmente una partnership più forte con la Russia dell'uomo forte di Putin. Scrive Deni in questo editoriale che l'Unione Europea ha già utilizzato la strategia della pausa dei negoziati di adesione con un ex paese comunista, la Slovacchia. All'epoca, si trattava degli anni 94-98, la Slovacchia era guidata da Vladimir Mečiar. L'Unione Europea non si fidava e aveva paura dell'influenza russa di cui era il vettore. Mosca acquistava infatti in massa i gasdotti del paese. Secondo il quotidiano però l'Ucraina non è la Slovacchia, la pausa nel riavvicinamento con l'Unione Europea rischia di essere ben più pericolosa per il paese. Vedremo insomma come andrà a finire questa questione, che naturalmente va valutata anche alla luce appunto dell'importanza strategica sullo scacchiere energetico dell'Ucraina. Ricorderete qualche inverno fa che proprio per i problemi dei gasdotti che passavano per l'Ucraina l'intera Europa rischiava di restare al freddo, o viceversa potrebbe rischiare di restare al freddo la Russia. Insomma, l'Ucraina ha questa carta da giocare dei gasdotti. Passiamo a un'altra questione che anche qui purtroppo ci può suonare molto familiare, che è quella della corruzione, che ovviamente non c'è solo in Italia, anzi ci sono paesi messi ancora peggio. Ecco, per esempio, uno di questi parrebbe essere la Polonia. Il giornale Rzeczpospolita, un giornale polacco, riporta i risultati di un'indagine di durata 3 anni condotta dall'Ufficio Centrale Anticorruzione della Polonia e dalla Polizia Internazionale, che ha scoperto un'enorme rete di corruzione e fondi neri utilizzata da diverse compagnie tecnologiche internazionali per corrompere i funzionari ministeriali responsabili dell'assegnazione degli appalti. Il 21 novembre un ex ministro dell'Interno è stato accusato di corruzione dopo una serie di arresti di ufficiali di spicco all'inizio della settimana. Secondo il quotidiano, i funzionari che rifiutavano di collaborare al sistema di corruzione erano perseguitati o licenziati. Una fonte anonima ha riferito a questo giornale polacco, che vi ripeto si chiama Rzeczpospolita, che i polacchi in ascolto, se ce ne sono, a loro verranno i brividi, ma insomma questo è quello che si riesce a leggere anche con la traslitterazione. La fonte anonima riferisce che siamo soltanto all'inizio, infatti questo ufficio centrale anticorruzione sta lavorando ad altri arresti che potrebbero concretizzarsi nei prossimi 3 mesi, quindi politica, appalti, grosse cifre, una miscela esplosiva non soltanto in Italia ma evidentemente anche in Polonia. Passiamo a una notizia positiva che comunque è legata ai temi della crisi e di come se ne esce, la DA Expansión, che è un quotidiano economico spagnolo. Il titolo dell'articolo è Esportazioni record, si riferisce naturalmente alle esportazioni della Spagna, che hanno ricominciato ad aumentare, e questo naturalmente è un segnale positivo per l'economia di un paese. Le vendite spagnole all'estero sono aumentate del 6,8% tra il settembre 2012 e il settembre 2013, raggiungendo i 175 miliardi di euro. Le categorie che sono andate meglio sono beni alimentari, attrezzature tecniche, prodotti chimici e automobili, che rappresentano il 65% del totale dell'export. Il deficit commerciale, grazie a questo boom di export, si è ridotto del 58% in un anno, assestandosi sugli 11 miliardi di euro. Naturalmente il governo si è detto molto soddisfatto di questo aumento e ha detto di scommettere testualmente seriamente sulle imprese spagnole esportatrici. La domanda esterna, che è rappresentata sostanzialmente appunto dalla domanda di prodotti spagnoli e quindi che spingono le esportazioni e dal turismo, ha avuto un ruolo cruciale nell'uscita dalla crisi, che dà per certa, insomma è un po' un ottimismo, però è un tesoro in cui bisognerebbe occuparsi e che andrebbe sviluppato affinché possa contribuire al cambiamento del modello di crescita per la Spagna. E anche qui forse ci suona familiare tutto questo, cioè aiutare le imprese che molto fanno da sole sarebbe naturalmente una carta da giocare per un governo che abbia a cuore la crescita economica dell'intero paese, perché il motore di questa crescita naturalmente sono le imprese. Vi segnalo un ultimo articolo dal Guardian, che torna su un argomento di cui ci siamo occupati tante volte, di cui probabilmente saremo costretti a occuparci ancora, che è quello dello spionaggio fatto su tutti noi normali cittadini, oltre che sui cittadini eccellenti, da parte dell'NSA, la National Security Agency americana. Secondo infatti i nuovi documenti pubblicati dall'ex dipendente Edward Snowden, quella gola profonda dell'NSA, alcuni funzionari del servizio segreto britannico hanno approvato la richiesta americana di analizzare e conservare le telefonate, le ricerche online e le email dei cittadini britannici, compresi quelli estranei a qualsiasi attività criminale. Quindi, scrive il Guardian, Londra in effetti avrebbe accettato segretamente la sorveglianza dei cittadini britannici. Questo, sapete, è un altro nodo di questa questione, cioè chi dice di non sapere, presidente Obama in testa, è sincero? È veramente possibile che ad altissimi livelli non si sapesse cosa facevano le principali agenzie, chiamiamole, di spionaggio dei rispettivi paesi? Non è molto credibile, però naturalmente bisogna trovare le prove. Ultimissima segnalazione, Filippo Aureggi dalla regia mi fa segno in fretta, dalla Süddeutsche Zeitung, che si chiede se quel ritrovamento di, lo avrete sentito nelle scorse settimane, di 1500 opere d'arte rubate agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale sono state ritrovate a casa di un collezionista tedesco, e forse potrebbe essere l'occasione ancora una volta per riflettere su quel capitolo mai superato in fondo per tantissimi tedeschi, persino quelli della mia generazione, io per metà sono tedesca, che è quello naturalmente delle persecuzioni razziali, dell'olocausto, della Shoah e di tutti i crimini di cui si sono macchiati i tedeschi prima della Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda guerra mondiale e anche dopo la seconda guerra mondiale. Era veramente l'ultima segnalazione, ma ci tenevo molto a farla. E vi auguro un buon sabato, una buona domenica e a settimana prossima da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati, buongiorno a tutti cari ascoltatori, 800 24 00 24, potete intervenire in diretta, tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi e vi chiederemo che cosa ha reso bella la vostra settimana, in qualche modo la vostra buona notizia, 800 24 00 24, le due chiamate più belle, a giudizio insindacabile nostro, il racconto più bello di che cosa ha reso bella la vostra settimana, vince tra l'altro i biglietti per la mostra di Munich. Più avanti vi daremo anche i dettagli su questo. Inauguriamo così il concorsone anche di sabato dopo averlo fatto la domenica. Torniamo sulle prime pagine dei giornali in cerca di notizie e di spunti. Intanto possiamo per esempio andare sul Secolo XIX, che è l'unico giornale che ha notizie sull'accordo raggiunto in nottata tra il comune, la regione e i sindacati dei lavoratori autoferrotranvieri. Anche oggi i bus di Genova resteranno fermi, ma ieri sera, dopo il quinto giorno di sciopero e di tensioni, si è aperto uno spiraglio. In prefettura è stata elaborata una bozza di accordo che stamattina sarà sottoposta ai lavoratori AMT. La svolta è arrivata dal governatore Burlando, che ha promesso 4 milioni di euro di fondi per investimenti. Tra l'altro sono fondi europei. Anche il sindaco Dori ha messo sul piatto altri 4 milioni di euro per il 2014. Niente tagli agli stipendi, ma qualche taglio ai servizi sì. Tra l'altro c'è da dire che, insomma, forse è già stato detto da altri, 8 milioni di euro non sono moltissimi in una città grande come Genova, se pensiamo che il buco dell'azienda dei trasporti di Roma è 157 milioni, forse 8 milioni è uno sforzo che si può fare, si può raggiungere. Al di là di come la si pensi sul discorso privatizzazioni sì o meno, c'è l'intervista di Beppe Grillo sul Secolo XIX e dice: da qui una scintilla che brucerà il paese. Questa è una battaglia europea, una battaglia di civiltà epocale che giustamente parte da Genova, perché questa è la superba, qui ci siamo inventati tutto, dalle banche in giù. La lotta dura contro le privatizzazioni? Chiedono a Beppe Grillo. Pubblico e privato, risponde, ormai sono concetti vuoti. Spesso il pubblico è più privato dei privati, prende le aziende, le prosciuga e poi mette sul mercato i cadaveri. La verità è che oggi a Genova si scontrano due mondi opposti che non possono più convivere. Quali mondi? Quello dei cittadini depredati di tutto e quello di chi ormai si sta svendendo ogni cosa, trasporto pubblico, acqua, luce, welfare, gas. No, ora basta, tutti questi servizi sono di proprietà dei cittadini, sono stati costruiti dai nostri nonni in mezzo secolo di battaglie, devono restare pubblici. Una posizione nota, quella di Grillo. Sentiamo ancora, a proposito delle auto, non c'è dubbio che bisogna penalizzare l'automobile in città, nei centri urbani non ha più ragione di esistere, bisogna privilegiare il trasporto pubblico, solo in Italia si pensa che il bus sia una roba da sfigati, e su questo Grillo ha ragione al 100%. Andiamo a leggere qualche dettaglio in più della notizia con cui abbiamo aperto le nostre good news di oggi. La seconda vita dell'Erasmus, questa è una bella notizia. 14 miliardi di euro dall'Unione Europea per rifinanziare il progetto Erasmus, che solo un anno fa sembrava lì per morire, per finire. Invece ecco la bella notizia. Per il periodo 2014-2020 il pacchetto, che permetterà a 5 milioni di giovani dai 13 ai 30 anni di studiare all'estero, si chiamerà Erasmus Plus, un marchio che unifica le diverse facce del programma. Il più famoso Erasmus, rivolto agli studenti universitari, ma c'è anche Erasmus Mundus per i ragazzi dei paesi terzi, Comenius per gli alunni delle scuole superiori, Leonardo da Vinci per chi vuole fare gli stage, e poi Ground Tweetvig, credo che si pronunci così, per gli adulti, e anche le diverse iniziative di interscambio. A gennaio entrerà in vigore. C'è anche lo specchietto del Corriere della Sera: siamo partiti nell'88 con 3.200 pionieri Erasmus e siamo arrivati nel 2012 con 252.000 studenti. che hanno beneficiato di questi sostegni economici limitati, ma tali da incentivare la mobilità in Europa, che è una gran bella cosa. Appunto, nel 2012 252.000 studenti. C'è anche un'intervista a Raffaella De Marte, la portavoce del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Lei è calabrese, ha 33 anni e dice: 10 mesi a Barcellona in Erasmus e poi ho capito che il mio futuro era l'Europa. Di storie così ce ne sono e ce ne dovranno essere sempre di più. Naturalmente non è che per tutti poi lo sbocco sarà andare a fare portavoce di un politico in Europa, perché altrimenti si alimentano strani sogni. Sulla prima pagina del Giorno vogliamo dare invece una notizia completamente diversa. Staccato l'assegno, il Pirellone salda i crediti delle aziende. È un'iniziativa della Lombardia, ma che farebbe bene a tutta Italia. La regione dà alle imprese gli arretrati dei comuni. Staccato il primo assegno, si chiama Credito in Cassa, è un progetto portato avanti dalla regione. 1 miliardo lo stanziamento totale, di cui per il 2013 verrà utilizzato un 6%. Ossia 60 milioni. Per ora hanno aderito tutte e 12 le province lombarde e 141 comuni, compreso Bergamo, dove ieri è stato staccato il primo assegno, 472.000 euro nei confronti per l'imprenditore Mauro Regazzoni, che aveva un debito nei confronti del comune di Foppolo in provincia di Bergamo. È intervenuta la regione a saldare questo debito. Questa è la notizia sulla prima pagina del Giorno. A proposito invece del contrario, della casta, delle spese pazze dei consigli regionali, nei consigli regionali da parte dei consiglieri regionali, il Fatto Quotidiano pesta giù duro: ritiri spirituali e libri hard, le spese allegre delle regioni, 900 euro per un viaggio in limousine e 500 per un convegno a Capodanno. Leggiamo, perché questo è interessante, anche se fa arrabbiare. Era di luglio quando i consiglieri regionali dell'Emilia Romagna Marco Monari e Roberto Montanari, della sinistra PD, si trovarono abbagliati dallo splendore del clima partenopeo, lasciandosi andare a scelte ardite. Dovevano partecipare a un congresso di Area Dem, un'area politica del Partito Democratico, ma per espletare le funzioni precipue, i due decisero di godere almeno un po' della bellezza indigena di Napoli. Per spostarsi da Napoli ad Amalfi prenotarono, attenzione, una comoda auto con conducente, un servizio limousine certamente piacevole per rimirare il paesaggio dal finestrino, cioè hanno affittato una limousine per andare a un convegno di partito. Uno dei due, Montanari, si difende: non sono mai salito su una limousine, non so niente di tutto questo, la cifra riportata dagli organi di stampa, 900 euro, non la conosco, sono certo che le indagini sapranno chiarire. Anche noi, caro Montanari, speriamo che le indagini sapranno chiarire, perché altrimenti hai fatto una figura di M e noi ti abbiamo pagato la limousine per andare a un convegno, una cosa pazzesca. Poi c'è un altro, un consigliere regionale marchigiano dell'UDC, che ha messo in nota spese 750 euro per i suoi esercizi spirituali. Luca Marconi, un applauso anche a lui, è l'inventore della casta ultraterrena, cioè si è fatto pagare appunto gli esercizi spirituali coi soldi dei consigli regionali. A proposito di politica, una curiosità è questa, la riporta La Stampa. Italia Popolare al via, è il partito di Mauro, il ministro della difesa, che sfida gli alfaniani. Poche centinaia di metri separeranno oggi Alfano da Casini e Mauro. Il nuovo centrodestra di Alfano riunirà i gruppi parlamentari regionali al Tempio di Adriano. I Popolari per l'Italia di Mauro, che sono quasi la stessa cosa ma sono divisi appunto, debutteranno al Teatro Quirino. Una distanza fisica minima che poteva essere tale anche dal punto di vista politico, invece le due schegge del centrodestra, che vogliono diventare centrali nell'area moderata, sono destinate a farsi concorrenza. Le elezioni europee andranno separate e dovranno superare lo sbarramento del 4%. Berlusconi, con la sua Forza Italia ad opposizione e da una posizione personale extraparlamentare, cercherà di far fallire le loro speranze. E questi sono gli incroci dei destini che ci saranno oggi a Roma. Ancora una notizia, o meglio un retroscena, che riguarda il voto sulla decadenza del senatore Silvio Berlusconi, che il presidente del Senato ha fissato in maniera inderogabile per il 27 di novembre. Silvio spera ancora nel voto segreto, scrive Repubblica in retroscena di Carmelo Lo Papa, ma da lunedì passiamo all'opposizione. Leggiamo: alla vigilia della settimana campale li chiama tutti a raccolta nelle prime linee del fronte, la permanenza in maggioranza ha le ore contate come la sua in Parlamento d'altronde. Ci riuniremo, il virgolettato è questo, lunedì e decideremo Così ha comunicato Berlusconi a chi è andato a trovarlo. Da ieri sera i senatori forzisti hanno indossato l'elmetto, astensione a raffica sulla manovra in commissione bilancio, l'ordine di scuderia della squadra di 60 senatori di dare battaglia sulla legge di stabilità per allungare il più possibile i tempi e rinviare il voto sulla decadenza che è stato fissato per mercoledì prossimo. 800 24 00 24, anzi un'ultima notizia non è bella, ve la voglio dare, la prima pagina del Messaggero è questa qua: acqua nei musei capitolini e allarme per gli affreschi. A proposito di cultura, di cui parleremo tra un attimo, dovessero, scrive Fabio Isman sulla prima pagina del Messaggero, dovessero firmare oggi in quella stessa sala i trattati di Roma che il 25 marzo 57 istituirono la Comunità Economica Europea, i 12 delegati dovrebbero portarsi l'ombrello, come pure i rappresentanti dei 25 paesi che nell'ottobre del 2004 vi hanno sottoscritto la Costituzione europea, perché in Campidoglio, nella sala più prestigiosa, quella degli Orazzi e Curiazzi, piove. E questa è la notizia. A proposito di cultura, ci sono stati gli Stati Generali della Cultura nella sede del Sole 24 Ore, un'iniziativa importante. C'era Squinzi, c'era anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha lanciato tra l'altro l'idea di fare ogni anno una città italiana capitale della cultura e rilanciare a partire di là la cultura come volano economico per l'Italia. Insomma, se ne parla molto, poi si fa troppo poco. Il Sole 24 Ore ci sta provando, sentiamo che cosa ha detto il direttore Roberto Napoletano. Io voglio dire quello che faremo noi come Sole 24 Ore insieme a Banca Intesa, e questo lo annunciamo qui. Noi faremo una selezione e finanzieremo le prime 10 start-up, ma non le finanzieremo, come dire, fate qualcosa, andate avanti. Noi ci impegniamo a fare un percorso, ci impegniamo a individuare e selezionare le idee migliori, ci impegniamo ad affiancarli con un percorso formativo che costruiremo insieme, ci impegniamo a dare tutti gli strumenti utili perché quell'idea imprenditoriale si realizzi. Io credo che noi dobbiamo avere grande attenzione per l'impresa culturale e per l'impresa creativa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Tra poco cominciamo a sentire anche i vostri interventi. Se volete interagire con noi su Twitter in tempo reale, si può fare 24 e Ale Maurizi sono i nostri account. Ci sono già le prime buone notizie della vostra settimana anche al 349-238-6666. Ci scrive un ascoltatore: buona notizia dal Veneto, a Pieve di Soligo, Treviso, 150 giovani volontari, età media 24 anni. Non so come ha fatto a calcolare età media di 150 giovani, non importa, gestiscono un cinema e tutto il ricavato va in beneficenza a Soligo, provincia di Treviso. Bellissima questa storia, sarebbe bello anche sentirla dalla vostra voce. Chiamateci 800 24 00 24 anche perché si vincono i biglietti per la mostra di Munch. A tra poco. Stiamo per parlare con un eroe, anzi un'eroina a suo modo, Cinzia Fontana, parlamentare del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Che insieme ad altri colleghi, altri tre parlamentari del PD, Tino Iannuzzi, Giuseppe Guerini e Marco Carra, e uno di Fratelli d'Italia, Achille Totaro, ha totalizzato un unplane di presenze in Parlamento e soprattutto di votazioni, perché lei ha partecipato a tutte le 2181 votazioni che si sono svolte a Montecitorio. Lei è onorevole, è un deputato dall'inizio della legislatura. Complimenti intanto. Grazie, grazie mille. Sicuramente i cittadini sono contenti quando vedono che c'è, perché si sentono percentuali di assenteismo altissime, gente che non viene mai, che becca lo stipendio, il super stipendio da parlamentare, cioè, almeno vai a fare il tuo lavoro. Intanto, sì. Guardi, io dico semplicemente faccio il mio dovere, nulla di eccezionale, di straordinario. Beh, però tutte le votazioni è un po' un record. Sì, sì. Effettivamente devo dire che sono riuscita proprio a, come dire, anche a non sbagliarne neanche una. Ma è un po' un vanto anche suo personale, cioè diventa un po' anche una, come dire, una questione di principio a questo punto, andare avanti il più possibile. Ma guardi, io ho fatto anche la legislatura precedente, sì, in quel caso al Senato, e ho sempre avuto, adesso non mi ricordo, il 99,5. Io non credo agli eroi, però credo tantissimo che per riprendere la buona politica servono i buoni esempi. E sì, i buoni esempi stanno appunto anche semplicemente nel fare il proprio dovere. Chiaro che dopo le notizie dei rimborsi per il limousine, voglio dire, ci tengo in modo particolare. Non tra l'altro tanto, erano colleghi, dire, del suo partito in Emilia Romagna. Sì, non so. Sì, però come dire, io non, siccome non ho mai creduto alle superiorità morali, sì, credo invece ai buoni esempi, e sui buoni esempi può riprendere appunto la strada della buona politica. Ripeto, al di là, poi ci mancherebbe, non è che uno riesca a mantenere il 100%, non è quello, può capitare il giorno che non stai bene, può capitare un impegno anche istituzionale importante. Ma i suoi colleghi parlamentari, quando la vedono, ormai lo sapranno, la temono un po', perché gli fa fare brutta figura a tutti quegli altri, dicono: no, guarda quella secchiona della fontana anche oggi lì a pigiare il bottone. Guardi, magari dalla secchiona me lo danno, però c'è tanta, anzi io ringrazio perché date, sì, spazio comunque anche agli esempi positivi, sì, è giusto, ci proviamo. Denunciare, infatti è giusto denunciare ciò che non va, però gliel'assicuro, c'è tanta, come dire, ho tanti colleghi con tanta, bravi, competenza, ecco, tanta serietà. A proposito, però, adesso non diventiamo troppo buonisti, perché no, devo bacchettare anche lei, perché lei è, però fa politica da tanti anni, tra l'altro io ho visto il suo curriculum, ha cominciato a fare il vice sindaco nell'89, sì, ora non c'è niente di male se uno fa, sì, servizio per la comunità, però, sì, molti cittadini pensano che si entra in politica e non si esce più. Lei ha intenzione di uscirne prima o poi? Dal tunnel. Assolutamente, riprenderò a fare il mio lavoro, anche perché, sì, lei sa benissimo che fare il vice sindaco piuttosto che il sindaco, poi come ho fatto, in un paese di 4.000 piccolo, e sì, 500 abitanti, non significa assolutamente vivere di politica, significa solo la passione, vabbè, per la politica. Però gliela devo fare questa domanda, perché quindi lei poi prima o poi tornerà a fare il suo lavoro. Però questo mandato è il terzo mandato, sono 7 anni. Secondo lei è giusto che ci sia un limite, no? Sì, il limite secondo me è giusto proprio perché, ma ripeto, avendo provato anche a fare il sindaco, ritengo giusto anche il limite nei mandati da sindaco, perché senta, sì, serve proprio continuamente il contatto vero con la realtà. E serve il ricambio, quindi, sicuramente, per evitare che si incrostino situazioni sbagliate. D'accordo. E lo sappiamo tutti. Senta, una cosa però va chiarita, perché la sua grande presenza è una cosa positiva. Ci sono parlamentari che non vanno alle sedute, non fanno interventi, non fanno proposte di legge, e va bene. Certo. Ma la questione di schiacciare il bottone, no? Perché si è detto tante volte che, insomma, voi siete stati trasformati dai vostri partiti, da chi guida i partiti, in degli esecutori praticamente, cioè andate lì a eseguire i dettami del gruppo parlamentare, pic, pic, pic, sì, no, a seconda di quello. È vero o lei qualche volta decide anche in autonomia? Ma no, mi è capitato sicuramente di decidere in autonomia. Mm. Il tema vero che... Tipo una volta su 2180? No, che di più. Due, adesso tre. Non mi ricordo il numero, però guardi, il tema dello schiacciare il bottone rispetto a, diciamo, come si sta all'interno di un partito, il tema come parlamentare è un altro, è la necessità oggi di rivedere, credo in modo urgente, adesso lo stiamo facendo perché faccio parte anche della giunta per il regolamento, però di rivedere effettivamente i regolamenti parlamentari, perché i tempi dell'oggi non riescono a stare dietro, anzi c'è una condizione tale per cui i tempi impongono una celerità che i regolamenti stessi non permettono, e quindi a volte il lavoro parlamentare stesso cozza con le necessità che... Poi guardi, io non sono mai stata che le classifiche vengono fatte, per esempio, rispetto anche, non so, il numero di proposte di legge presentate. Sì, va bene, è chiaro, oggi non vuol dire nulla, però se uno non ha mai fatto una proposta di legge, o se uno come lei partecipa tendenzialmente a tutte le sedute, un giudizio uno se lo può fare, insomma, perché altrimenti vale tutto e non vale niente. Invece io sono dell'idea che, come diceva lei, tra l'altro, valgono gli esempi concreti. Senta, una cosa ancora per chiudere il suo identikit: lei sostiene Cooperlo o Renzi? Cooperlo. Perché Cooperlo? Così. Ma perché la sua visione di paese che mi piace, io trovo oggi più innovativo. Addirittura? Sì. Ma scusi, ma Cooperlo però non lo conosceva nessuno fino a sei mesi fa. Nel merito innovativo anche nel modo di interpretare la politica e anche di porsi, anche quella gentilezza d'animo che non fa male oggi. Cioè, secondo lei il segretario di un partito grande e importante come il PD può avere come segretario uno come Cooperlo che ha questi modi? Cioè, non si è mai visto, per esempio, fare un comizio, dare lo slancio? Non sembra uno che dà slancio alle masse, sembra uno che... Così. Ma guardi, non io l'ho visto in questi mesi, contatto con le persone all'interno delle assemblee, all'interno dei comizi in cui è stato chiamato. Devo dire che è stata effettivamente per molti, proprio anche come approccio, come modo, come una... Altrimenti una non l'avreste sostenuta. Benissimo, vi ha dato slancio. Va bene, no, questa era solo una curiosità per chiudere, ma la notizia che ci interessava era un'altra. Oggi abbiamo conosciuto Cinzia Fontana, recordman di presenze e di votazioni alla Camera, insieme agli altri colleghi del PD, uno del Fratello d'Italia. Complimenti ancora, buona giornata, a presto. Grazie, buongiorno. 800 24 00 24, a tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ritroviamo il nostro Carlo Gabardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono contento di essere qua. Buongiorno. Hai sentito la parlamentare recordwoman? Assolutamente sì. Presenze. Ho sentito. Già ci contestano gli ascoltatori: ah, ma perché date spazio? Vabbè, insomma, una volta che in una... che senso? No, perché questi che guadagnano un sacco di soldi. Sì, tutti guadagnano un sacco di soldi. Però lei almeno ci va a ma ascoltarli, poi bisogna comunque, non è che voglio dire. Tu, per esempio, che percentuale hai di presenze si può fare da quando sei stagista? Il 100% direi, e tra l'altro lo dici giusto, oggi è quasi un miracolo, perché in realtà ho fatto un piccolo incidente in motorino ed è giusto che lo dica, lo devo dire anche a mia mamma che non gliel'ho ancora detto, però mercoledì ho fatto un piccolo incidente, ho delle costole che non stanno tanto bene, ma però sto benissimo, questo... La voce è sempre tuonante, quindi le costole non hanno influenzato. Ho grosse difficoltà a ridere, ma non importa. Faremo una puntata un po' più seria. È molto triste, è tutto molto triste. Quindi le tue notizie di oggi saranno in linea con questo clima? Assolutamente sì. Più mesto. Volevo portare delle notizie dal pronto soccorso, ma non ne ho dal pronto soccorso. Ne ho invece un'altra. In un momento in cui per le tragiche vicende sarde ci siamo trasformati tutti in 60 milioni di tecnici della protezione civile, sembra incredibile, ma è vero. Il sito della protezione civile di Roma Capitale, fino alle 17 di giovedì 21 novembre, quindi l'altro ieri, neanche 48 ore fa, suggeriva come emergenza di guardarsi dalle ondate di calore. E non era il calore oceanico che fa no, calore, no, era proprio il caldo, nel senso che questo sito aggiornatissimo, aggiornato al 5 ottobre, riportava dettagli su terremoto, io non rischio, e poi con grande evidenza dava questa informazione sulle ondate di calore, cioè si invitano i cittadini a seguire i consigli utili per difendersi in modo corretto dal caldo e a consultare le pagine meteo per avere tutte le informazioni sull'andamento delle ondate di calore, tanto di foto con tre anziane signori in maniche di camicia che si asciugano il sudore. Grazie, un po' in ritardo visto con quello che sta succedendo in Sardegna, e grazie alla segnalazione di un lettore pare che il sito appunto alle 17 poi sia stato aggiornato a causa di queste proteste. Si spendono un sacco di soldi per fare i siti e poi però bisogna aggiornarli. Esattamente, e bisogna, infatti ci chiediamo un po' chi sia responsabile di questo sito. Come chiude il giornalista Paolo Conti, questa notizia è del Corriere Online, dice: non c'è nemmeno una questione di fondi e di tagli, è davvero solo sciatteria, noncuranza, disattenzione. Quindi ci chiediamo che cosa sia successo, perché anch'io, diciamo, come prima risposta mi sono detto sarà una questione di tagli, invece pare di no, e quindi è proprio che è fatto così un po', e non diciamo delle parolacce, no, e andiamo, diciamo, alla prossima notizia. Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, 19 novembre, un ragazzo ruba due iPhone, poi dagli scaffali, prima stacca le barre, diciamo, antitaccheggio, cerca di uscire, si staglia contro i vigilanti che lo bloccano e chiamano i carabinieri. Davanti ai carabinieri questo ragazzo dice: mi chiamo Said, sono algerino, mi chiamo Said, e continua a ripetere mi chiamo Said. I carabinieri, diciamo, più furbi di Said, con un semplicissimo fotosegnalamento alla stazione dei carabinieri di Trezzo sull'Adda e qualche rapidissimo accertamento, capiscono che questo ragazzo non si chiama Said, è italianissimo, è di Busnago, non ci dicono il nome sul giornale, diciamo noi lo chiameremo Lollo, è un nulla facente di Busnago pregiudicato. La cosa interessante è che alla richiesta dei carabinieri, che gli hanno detto: mi scusi, ma perché lei ci continuava a dire mi chiamo Said, lui dice di aver mentito al momento dell'arresto nella speranza di suscitare passione per guadagnarsi il quanto mai presunto trattamento di favore riservato agli indigenti, meglio se stranieri. Non sappiamo, Lollo di Busnago, dove vivi tu, ma tendenzialmente in questo paese non è che gli stranieri, soprattutto poi se indigenti, vengono trattati particolarmente bene, quindi diciamo che la tua tecnica ci sembra abbastanza fallimentare. Comunque è stato arrestato. Questa ultima domanda che viene da Detroit e che mi fa diciamo sorridere nella sua Alan Markowitz, 59 anni, di Detroit, si separa da sua moglie, ci rimane malissimo, molto molto male, tanto che a un certo punto, quando ha abbandonato la casa della moglie, decide di comprare la casa di fronte alla casa della moglie. Esattamente, è brutta questa notizia. E che cosa fa nel suo giardino di fronte alla casa della moglie? Cosa brutta non la dire, vediamo, è tra il brutto e l'artistico. Installa un'enorme scultura di bronzo raffigurante un dito medio. Ora, come quello a Piazza Affari, che esattamente. Infatti sarebbe interessante sapere se invece della moglie, diciamo, forse si lamenterà Cattelan per tutto questo, diciamo, per plagio della sua, appunto, come dicevi, la più famosa opera, il dito medio di Piazza Affari di fronte. Questo signore di Detroit, possiamo anche pensarla come un gesto così, diciamo, goliardico anche. No, non sappiamo cosa sia molto successo, quindi magari diciamo a sua difesa, Alan è proprietario di uno strip club, quindi è un po' il suo modo di pensare questo, e quindi ha messo un bel vaffanculo di fronte alla finestra della ex moglie. Ripeto, se si è fermato lì, tutto sommato poteva anche andare peggio, insomma. Vabbè, comunque, Gabardini, questo è oggi sei meno, vai. Sei meno? Sì. Ma sono ferito, sono già ferito, sono colpito. Esatto, anche sei meno. Allora, sentiamo un po' se ce la facciamo un ascoltatore all'800 24 00 24. Massimo da Olbia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, e ricordiamo tra l'altro che se ci raccontate che cosa ha reso bella la vostra settimana, si vincono due biglietti ogni ascoltatore per la mostra di Munch che c'è a Genova. Più avanti i dettagli, prego Massimo. Guarda, inizialmente sembra paradossale, però chiaramente puoi capire, sono di Olbia, sono in mezzo al fango da una settimana. Quindi in un primo momento ho detto, ma di bello di questa settimana c'è proprio poco. Poi invece ho preso lo sfondo positivo di questa vostra, chiamiamola, domanda, che siamo un popolo, anche se parlo milanese ma sono qua ormai da 10 anni, un popolo unito in una maniera straordinaria. Cioè siamo in giro da 3-4 giorni a darci una mano l'uno con l'altro, che non so neanche chi sono le persone che ho di fianco, a pulire scantinati dove c'è... State reagendo, Massimo, questa è quella cosa che conta. Grazie, noi dobbiamo fermarci qua perché c'è il giornale radio. Se vuoi continuare il tuo racconto da Olbia, che ci interessa, ci sentiamo dopo il giornale radio, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, si riparte. Buongiorno da Alessio Maurizi, da Carlo Gabardini. Siamo anche su Twitter, sia noi che il programma. L'account si può fare 24. E il mio account è @CarloGabardini. Mio Ale Maurizi, abbiamo gli ascoltatori. Avevamo Massimo da Olbia che ci stava raccontando un po' come si sta reagendo in Sardegna. Bene, ci stava dicendo Massimo, anche se tra mille difficoltà, e questo è già un racconto, un bel racconto, perché ricordiamo che cosa ha reso bella la vostra settimana? Carlo, la tua niente, perché hai fatto l'incidente, esatto. Gabardini. Quindi... Vabbè, che sono salvo, su, che sono salvo, e che ho anche sfruttato la radio per dirlo a mia mamma, perché non avevo il coraggio di dirglielo live, che sennò mi sgridava tantissimo. Ma torniamo a Massimo, ci stava dicendo. Buongiorno. Sì, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Niente, diciamo che la cosa bella di questa settimana è che, se si può dire bella, siamo uniti, siamo veramente un popolo straordinario, andiamo in giro ad aiutare persone che non conosciamo neanche, che non hanno neanche lo spazzolino da denti, cioè montagne, cumuli di materassi, cumuli di ricordi, però siamo tutti uniti. Io, guarda, sono tre giorni che non torno neanche a casa, con gli stivali, che andiamo dentro gli scantinati dove l'acqua è arrivata al soffitto. Cos'è che vi servirebbe di più in questo momento, Massimo? Guarda, ti dico la verità, tutte le persone stanno dando il massimo, arriva di tutto, da tutta Italia, sì. Anche voi con siete sempre vicini, parlate sempre di noi. Soldi, è inutile dirlo, perché servono sempre, ci diciamo. Vorrebbero. Qui non, anche se me ne mandi il triplo di quello che ho bisogno, non basta. Certo, perché ci sono le case, ci sono le attività economiche. Grazie Massimo da Olbia per questa testimonianza. Ci sono tante cose da fare per ripartire. Speriamo, incrociamo le dita. Grazie mille. Presto si ritorni, insomma, non dico alla normalità, ma a qualcosa di simile. Agostino da Milano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Sono Agostino da Milano, precisamente dalla magnifica frazione di Trenno. Questo è importante per quello che dico, che è in mezzo all'acqua, risaie, risorgive e fontanili. Ah, e questa, la più bella cosa della settimana è che finalmente i cittadini di Trenno del quartiere Gallaratese si sono svegliati. Sì? Ti spiego perché. Questa mattina, mentre c'era la doccia, sentivo che con 8 milioni di euro, se non ho capito male, sì, si sta risolvendo il blocco dei trasporti pubblici, sì, a Genova. Sì. Bene. È questo. Da noi si sta costruendo un canale navigabile inutile alto 40 centimetri, quindi non è navigabile per Expo, no? E diventa ridicolo, in quanto noi viviamo nella zona delle acque. Italia Nostra e Politecnico hanno già spiegato che l'acqua deve passare dal Bosco Città, dalla Cascina Fametta, quelle cose lì. Il ridicolo è che noi ci hanno chiuso la scuola, che costa dai 4 ai 10 milioni di euro. Sostanzialmente il canale costa 80 milioni di euro, 10 città a sistemare il trasporto. Ma questa pubblico. Mi scusi Agostino, è una, sì, opera legata ad Expo? Sì, e adesso cominciano a dire che tutto militare. Ma dei raggi, non è cosa che... serve questo canale per profondo? Per fare le foto. Come? Perché... Per fare le foto? Sì. Beh, perché praticamente. Sì. Io non sono informato adesso su questo, no, aspetto. Neanch'io, però sono molto incuriosito dal fatto, sì, che sia profondo 40 centimetri. Sì. Sì, e ci sono i progetti, l'ha spiegato, sì, ieri in consiglio di zona, no? Tra l'altro, alcune zone chiedono di interrarlo, quindi non faranno neanche le foto. Ma è ridicolo che noi siamo nella zona dell'agricoltura. Noi l'11, nella parrocchia di Trenno, si fa la festa dell'agricoltura della provincia di Milano, perché è il San Martin, che è il giorno del trasloco dei fitavoli una volta. Sì. Da noi è rimasta la tradizione. Cioè noi siamo in mezzo all'acqua, ci chiudono la scuola elementare che c'era, quella vecchia, fino dal 1910. E si spendono 80 milioni per fare un canale. Si spendono 80 milioni. Per fare, ma quello che non capisco, l'amministrazione come giustificazione non credo che dia il fatto di fare delle foto, giusto? Qual è la motivazione? Per iscritto. Si era partiti con le vie d'acqua. Infatti, vie d'acqua. Internet, le famose vie d'acqua di Expo, certo. Sì, girano i filmati di Pisapia che annuncia. Sì. E poi ci sarà un rigagnolo. Chi dice che ci sarà uno scavo di 12 metri? Ma il pelo d'acqua, e gli esperti di ingegneria idraulica ce l'hanno spiegato, anche ingegneri del comune in pensione, no? Sì. Praticamente ci sarà un pelo d'acqua, poi se commette errori ce lo spiegheranno. Però 40 centimetri. Va bene, Agostino, abbiamo capito, grazie. Insomma, ci sono delle contraddizioni nelle grandi opere legate all'Expo, sicuramente. Bisognerebbe andare un po' a vedere per semplificare, portare all'osso e fare le cose giuste. Ornella dalla provincia di Monza, non ho capito però se Agostino ci portava comunque una buona notizia. Beh no, lui era una buona proposta, parte, direi. Era, sì, invece che spendere questi 80 milioni, sì, perché non si fa sulle scuole e per le foto. E io ho molto interessato alle foto, anche perché ho Instagram, volevo andare a fare una foto a questi 40 centimetri, porca miseria. Ornella dalla provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Eccoci qua. Bene, siamo tutti qui. Ci dica. Lei che cosa voleva raccontarci, che cosa ha reso bella la sua settimana? La mia settimana è stata resa bella da una notizia che mi è già arrivata tempo fa, ma che mi si è ripetuta in settimana, perché ho dovuto andare a fare un certificato per la mia figliola che aspetta un bimbo. Oh, che bello. Questi sono bellissimi. Quindi insomma siete in attesa, lei diventerà nonna. Certo, molto molto molto. Per la prima volta? Per la prima volta, Ornella? Sì. Brava, complimenti. E come diceva la mia nonna, c'è un solo rimedio per non invecchiare, morire giovani. Quindi, brava, invecchiare, dare spazio ai giovani. Cioè, morire giovani, non da giovani, morire giovani non da giovani, ma giovani, che è un'altra no, cosa. No, essere giovani dentro. Va bene, Ornella, voleva dire qualcosa che sui temi della puntata, così dell'attualità o no? Certo, sì, certo. La natura è una gran maestra per tutti noi. E ogni tanto ci bacchetta un pochino. E da queste bacchettate... Sta parlando della Sardegna, immagino. Certo, facendo un grosso respiro e dando comunque sempre un grosso contributo e aiuto a tutti quelli che soffrono in questo momento. Dobbiamo imparare per il futuro ad avere più fiducia e essere più rispettosi di tutto quello che ci succede intorno. Va bene, grazie Ornella. Non so, tu come la vedi? La Ornella che diventa nonna può essere una buona notizia? Cioè, nel senso... Beh, sì, è sicuramente una buona notizia. Attendiamo, sì, altre buone notizie e poi facciamo familiare una classifica. Eh sì, perché questa è proprio, vale giusto per loro, però insomma... E poi bisognerà regalargliene tre di biglietti, uno anche per la bimba che nasce, giusto? Quindi... 800 24 00 24, tra poco, dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I was born with the wrong sign, in the wrong house. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time, for the wrong reason and the wrong life, on the wrong day, at the wrong week. I used the wrong method with the wrong technique. Wrong. Gli errori che si sono fatti, per esempio in Sardegna si sono fatti parecchi errori e si è scoperto che il centro decentrato della protezione civile che doveva controllare era chiuso, cioè non era attivo, e questo sono errori che non bisogna fare. Noi però siamo andati a cercare uno di questi centri che fanno monitoraggio, mm-hmm, dove nonostante i tagli, perché ci sono stati tagli per tutti, c'è la spending review, a volte si taglia anche male laddove non si dovrebbe tagliare, però si riescono a fare delle cose egregie. Il centro di monitoraggio per le frane della Lombardia a Sondrio è uno di questi casi. Salutiamo il dirigente, che si chiama Luca Dei Caes. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Non so se ho pronunciato bene. Dei Caes. Ha pronunciato benissimo. Un cognome di origini... Di origini valtellinesi. Valtellinesi. Insomma. Lei è proprio della montagna. Le valli ce l'hanno. Io sono proprio della montagna. DNA. Vengo e sto lì, insomma. Intanto rilancio anche il numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco con voi cari ascoltatori. Adesso vi stiamo però raccontando questa storia. La storia è di un centro di monitoraggio geologico nato all'indomani degli eventi che colpirono la Valtellina, addirittura nell'87, che è rimasto lì così a vivacchiare fino ai primi anni 2000, e adesso negli ultimi anni voi ci avete dato dentro e nonostante i tagli che avete avuto pure voi siete cresciuti. Quante frane monitorate adesso, Dei Caes? Sì, attualmente noi monitoriamo 26 aree franose su tutto il territorio della regione Lombardia e abbiamo prospettive a breve, diciamo a breve termine, di acquisire altre due reti di monitoraggio nel bresciano e a medio termine di fare un ragionamento più organico anche su altre aree della regione Lombardia. Perché questo, il numero delle frane che voi monitoravate qualche anno fa era molto più basso, nel frattempo il personale che voi avete a disposizione è sceso, però siete riusciti a fare di più con meno forse anche. Sì, diciamo questo è stato un progetto portato avanti dalla Direzione Generale di ARPA che ha cercato di ottimizzare le risorse. Sì. E quindi ad inizio 2009 noi monitoravamo 16 aree di frana. Sì. E avevamo 13 persone più un paio di consulenti. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù e facendo un forte investimento sia in attrezzatura che in formazione abbiamo internalizzato una serie di servizi, quindi tutte le misure a campo, la progettazione delle reti. Ecco, questo mi sembra un concetto importante. Perché, molto, molto. Perché tutti dicono che bisogna esternalizzare, ci vogliono aziende specializzate nei servizi, però queste consulenze costano un sacco di soldi. Voi, Zacca, avete tagliato e avete riportato a voi queste cose. Abbiamo riportato noi, questo ci ha permesso di passare da 13 persone più un paio di consulenti a 9 persone, quindi abbiamo ridotto il numero del personale. E in parallelo siamo riusciti, ovviamente con un'attenzione sempre alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, quindi un miglioramento di questo tipo, ad aumentare il numero di frane. Dicevo, eravamo a 16 nel 2009, siamo a 26, ben presto arriveremo a 28 e abbiamo a medio termine un progetto di ampliarci di alcune decine di frane in più. Lei che cosa pensa quando per esempio, come ci ricordava prima Gabardini, il sito della Protezione Civile di Roma Capitale, che non era aggiornato a metà novembre e portava... Cioè che a metà novembre parlava ancora di ondate di calore come problema maggiore, diciamo. Poi si parla di tagli alla spesa eccetera, poi si è scoperto che c'erano delle persone che lavoravano a quel sito, per esempio. Cioè c'è anche un po' di incuria. Bisognerebbe premiare chi lavora bene e bocciare chi lavora male. Invece chi lavora male cosa fa? Rimane sempre lì al suo posto. Beh, oddio, questo non sta a me dirlo. Io posso dirle che noi cerchiamo appunto di essere attivi sempre. Siamo attivi 365 giorni all'anno. Abbiamo un Speriamo servizio... che non ci siano frane negli anni bisestili. Speriamo. Quindi noi siamo sempre attivi, abbiamo sempre del personale attivo, sia che sia feriale o festiva la giornata, e abbiamo un servizio di reperibilità proprio adeguato negli ultimi anni anche in base alle nuove tecnologie, che ci permette di scattare, di intervenire appunto in tempi molto brevi in qualsiasi momento dell'anno. Però dovreste forse trovare un modo per insegnare questa vostra eccellenza, perché il dato mi sembra fondamentale. Cioè in 4 anni, in realtà, con un taglio di personale incredibile, quindi da 13 più 2 a 9 persone, avete quasi raddoppiato le aree di frana delle quali vi occupate. Questa cosa in qualche modo dovete insegnarla a un sacco di altre persone, giusto? Sì, questa cosa di questa diciamo positività va merito molto anche ai tecnici. Certo. Che lavorano con passione al centro e mettono del loro, quindi sono stati tutti molto disponibili a prendersi questi carichi di lavoro, a riconvertirsi, a fare delle attività in più, e quindi ovviamente la passione di chi opera poi in questi settori è fondamentale per fare questi miglioramenti. Sì, no, la passione di sicuro, però mi sembra che ci sia anche una progettualità molto precisa. Sì, cioè fare formazione è una cosa che molti non fanno. Esatto. In tecnologia hanno fatto formazione, si sono inventati anche dei metodi. Lui mi raccontava prima di fare l'intervista, per esempio, su come trasmettere i dati dalla montagna a valle. Ci sono tutta una serie di problemi e loro, insomma, si sono messi lì a studiare, a progettare, a risolvere con uno spirito costruttivo, dimostrando che anche con meno risorse si può lavorare. Io però insisto sul punto che i dirigenti di questi centri di monitoraggio della protezione civile, che non hanno fatto scattare gli allarmi come si doveva, andrebbero rimossi, e invece chi lavora come lavorano qua a Sondrio bisognerebbe premiarli ancora di più. Tra l'altro voi avete la reperibilità, 365 giorni, vi chiamano il 25 dicembre e dovete andare sul luogo della frana. Certo, infatti abbiamo, ci vuole proprio passione anche per fare questo lavoro. Ci vuole passione sicuramente, come le dicevo, sì, anche perché purtroppo spesso nel pubblico altre grandi gratificazioni non ci sono, quindi la passione è fondamentale da questo punto di vista. Come le dicevo, questa situazione, questa immediata prontezza dipende anche dall'essere attenti e investire sempre in nuove tecnologie, nuovi sensori. Abbiamo diciamo investito su sensori di nuovissima generazione, sui radar da terra, sui radar, sì, satellitare. Abbiamo investito su colonne inclinometriche, le abbiamo viste utilizzare molto in Norvegia, abbiamo cercato di fare le nostre, portarle in Lombardia. Senta, ma ci tolga un'altra curiosità, ma i soldi chi ve li dà, la regione o lo Stato o qualcun altro? I soldi, noi siamo una branchia di Regione Lombardia, perché tutto il nostro, sì, lavoro poi è finalizzato a mandare delle allerte, delle situazioni di criticità verificate anche, sì, sul campo, alla sala di protezione civile di Regione Lombardia, che poi ha il compito di fare scattare quello che deve scattare, certo, tutta la situazione dei piani di emergenza. Va bene, grazie mille a Luca De Cais, dirigente del centro di monitoraggio geologico di Sondrio. Grazie. Volevamo tirarci un po' su, visto quello che abbiamo visto in questi giorni e anche gli errori umani e logistici. Un'ottima notizia, direi. Una notizia da Si può fare. Fra l'altro, sì, no, a parte che adesso dobbiamo dedicare un po' di attenzione esatto, a Giacomo Bilaghi, esatto, era quello che volevo dire. Ci hai mandato su Twitter, però un attimo, perché volevo anche dire un'altra cosa. Noi volevamo sentire anche il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, e non so perché stamattina si è svegliato tardi, perché era protagonista di un'altra bella storia. Ce l'abbiamo la voce di Andrea Orlando, il ministro dell'ambiente, sì, perché anche ieri ai microfoni proprio di Radio 24, il ministro dell'ambiente ci ha confermato che si sta lavorando per uno stop alla cementificazione. Non si può più costruire in aree agricole se non dopo avere in ogni comune vagliato la possibilità di ristrutturare aree dismesse, e in ogni comune ce ne sono a dozzine. E questo è il sindaco di Belpasso in provincia di Catania, che ha detto stop ai capannoni, ai centri commerciali. E di questi tempi, quando si parla anche di lavoro, di occupazione, non è facile. E come si è preso questo coraggio e dire questa cosa qua, però adesso non risponde al telefono. Vabbè, questa è la storia di Belpasso. Forse coraggioso ma distratto, direi. Coraggioso ma assonnato il sabato mattina. Sentiamo invece il ministro Orlando questo passaggio. Io le dico soltanto una cosa che mi sembra sintomatica. Noi abbiamo come governo approvato una legge sul consumo del suolo, che naturalmente deve essere approvata poi dal Parlamento, che prevede due cose fondamentali: non si possono usare gli oneri di urbanizzazione per fare cassa, e non si può costruire sul terreno agricolo, sul terreno non urbanizzato, se non si sono riutilizzate le aree urbane sottoutilizzate o abbandonate. Abbiamo tantissimi appartamenti sfitti, abbiamo aree degradate e non abitate. Quella legge è rimasta ferma fino a qualche giorno fa alla conferenza unificata delle regioni, perché accettare l'idea di un vincolo così forte non è una cosa che va liscia. Questo era Orlando, insomma, giusto per così, per dovere di cronaca. Adesso però dobbiamo... Giacomo Biraghi che ci ha inondato di tweet, perché lui lavora per l'Expo. Sì, lavora per Expo, diciamo, in risposta all'ascoltatore di Trenno sull'Adda, che diceva si spendono 80 milioni per fare un canale che è navigabile ma è profondo solo 40 centimetri. Giacomo Biraghi risponde: intanto, se vogliamo acqua dentro Expo 2015 serve un canale per portarla dal Villoresi e scaricarla nel Naviglio. Ma perché noi vogliamo acqua? È la stessa domanda 2015. Che mi pongo anch'io. Ma infatti intanto chiediamo, sì, Giacomo Biraghi magari di chiamarci, se non oggi, domani. Siamo qua anche domani, quando sarebbe, vuole, interessante, sì. E poi ci ricorda che questa questione il canale non ha nulla a che fare con le foto, serve solo un canale piccolo di trasporto acqua dal Villoresi. Se serve un canale piccolo per trasportare dell'acqua, forse 80 milioni sono un po' tanti. Voglio dire, se li danno a me 80 milioni dell'acqua, la porto io con dei secchi. È ovviamente una battuta, Giacomo Biraghi si arrabbierà probabilmente per questa cosa. Il suo profilo Twitter recita: tavoli per Expo 2015, quindi deve avere un ruolo comunque anche istituzionale là dentro, quindi magari un po' di cose le sa, un po' di precisione. No, ma sa un sacco di cose. Noi avevamo detto che non eravamo a conoscenza di questa questione del canale. Le vie d'acqua per Expo si sanno, sono degli investimenti che si fanno, però in effetti c'è un po' da capire, come sempre l'abbiamo già detto, quando si fanno queste grandi opere. Esatto. E poi hanno inventato questo bel hashtag, visto che sono un sì? twittero appassionato di Twitter, che è Expo Ottimista, scritto Expo, diciamo la O fa sia di Expo sia di Ottimista, che è, siccome c'è tanta gente che parla molto, no non è ironico, perché c'è molta gente che parla molto male, di Expo. Effettivamente su Expo ci piovono sostanzialmente solo critiche, e invece forse c'è anche da capire che cosa porterà anche di buono, perché speriamo, anzi dovrà portare anche del buono a questa città di Andiamo Milano. Con un paio di ascoltatori. Aurelio da Genova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo intanto dare un messaggio di vicinanza a queste persone, insomma anche quel ragazzo che è intervenuto prima dalla Sardegna. Sardegna. Sì, esatto. No, io ho chiamato perché ho vissuto, diciamo così, un po' in prima persona, no? Un dramma del genere. Era riferito a Genova, quando sì. c'è stata l'alluvione di un paio d'anni fa. Ecco, voi dicevate, facevate questa domandina un po' così, la cosa bella, no? Che, ecco, io non è che ho vissuto una cosa bella questa settimana, però la cosa bella che si vede sì. è la vicinanza, no? È l'unione che si crea, anche tra persone che prima erano, diciamo così, anche un po' rivali. Perché io, dalla mia esperienza, mi ricordo che a Genova ci sono stati queste persone, sono state definite gli angeli del fango. Sì, sì, ce li ricordiamo. Non mi reputo uno di loro. Ero una persona come tante che si è messa agli stivali, si è rimboccata le maniche. Vabbè, ha preso quindi era uno di loro. Sì, diciamo di sì. Non gli piace ad Aurelio la mitizzazione di questo nome, forse non Angelo le piace del Angelo fango. O non le piace Fango? No, forse Angelo, va bene. Senta Aurelio, però abbiamo capito. Lei è un Aurelio del fango, diciamo, invece che un Angelo. Se non le piace il nome, va bene. Sempre con la... Ci accordiamo. Ci dica invece una cosa di più attualità riguardo Genova. Come ha vissuto questi giorni di sciopero degli autoferrotranvieri? Hanno ragione o no? Ma lì bisogna sempre vedere poi come sono le cose. Io ho visto comunque Genova che è rimasta tutta unita con questi lavoratori. Va bene, grazie Aurelio, questa è bella. Grazie mille. Aurelio sottolinea, diciamo così, questo spirito di unità che si crea nelle situazioni difficili, che è lo stesso di cui ci ha parlato Olbia, ma anche Genova, e anche in questo caso forse unione fa la forza con la protesta degli autoferrotranvieri, i genovesi che si sono stretti attorno a loro. Posso citare un altro tweet? Sì? Un altro tweet che arriva sul mio Twitter personale, che dice, di Simon Tassone, che dice: ma Catanzaro, che da 4 giorni è senza acqua potabile, altro che canali Expo. Non conosco la notizia, ma se vuoi chiamarci, Simon Tassone, noi siamo ben contenti di ospitarti. E già il fatto di dirlo potrebbe essere una bella notizia. Vogliamo fare anche Roberto da Roma, lo sentiamo dopo. Roberto, vai. Sì, buongiorno. Subito. Eccolo qua. Buongiorno. Io volevo condividere una bella notizia, semplicemente mia figlia mi sta iniziando a chiamare papà, e per me questa è già una cosa importantissima. Qui ci sciogliamo. Bello. Io ho una bambina di 2 anni, quindi lo capisco, Roberto. Esatto. Quanti anni ha sua figlia? Ma nel senso che avevi dei dubbi che non fossi tu il papà, o è questo? No, fortunatamente mi assomiglia anche, quindi... Scusami, mi sono permesso, non volevo insinuare nulla. A questo punto abbiamo la sicurezza. Va poi bene. Volevo aggiungere semplicemente una non voglio fare demagogia, però ultimamente sta circolando su Facebook un post dove dice giustamente a mio parere, io non do le mie 2 euro o il mio euro a favore per soccorrere gli sfollati, diciamo così, le persone disagiate della Sardegna, perché pretendo che le mie tasse vengano utilizzate invece per prevenire queste tragedie. Roberto, però in questo momento è già accaduto, c'è chi ha bisogno. È anche una posizione, secondo me, grazie Roberto, corretta, grazie. Cioè, si potrebbe aprire un dibattito su questo, perché è chiaro che dispiace se a farne le spese poi la solidarietà nei confronti delle popolazioni sarde colpite dall'alluvione, però è vero che ci si muove con questa cosa pietistica della solidarietà, e poi però, come diceva giustamente lui, i soldi pubblici non si spendono per far prevenzione, per fare altre. Ma sei ancora in linea, Roberto? Sì, sono in linea. No, io dicevo abbiamo cosa. Bisogno di sapere quanti anni ha tua figlia prima di capire se è una buona o non è una buona perché notizia. Se perché se anni. Ne ha 20, forse è un po' tardi. A 10 mesi. Vabbè, quindi parla già a 10 mesi, è un'ottima notizia. 10 mesi dice papà, è buono. Farà buono, la politica, direi. Buono. Grazie, Roberto. Grazie mille, Roberto. 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore.

chiaramente. Quindi voi come eravate venuti a conoscenza di Passamano Bolzano? Non ho capito la domanda. Come eravate venuti a conoscenza dell'esperienza di Bolzano? Di Passamano Bolzano. Sì. Circa un anno fa è stato trasmesso un servizio giornalistico a TG2. Sì. E da lì abbiamo avuto l'idea. Quindi c'è stato un po' di lavoro e finalmente insomma siamo arrivati. Ma vi siete messi in contatto con Bolzano, giusto? Assolutamente sì. Sì, loro ci hanno dato qualche indicazione, ci hanno aiutato a capire anche meglio quale fosse il progetto. Poi è bello questo gemellaggio tra Bolzano e Caserta, due realtà che ma come funziona esattamente? Non ce lo spieghi Anastasia, Gabardini non lo sa, allora, io lo so. Bolzano lo conosco, noi sì. In una prima fase abbiamo raccolto tutti gli oggetti e i beni che potevamo, quindi da domani sono a completa disposizione. Sì. Chi viene nel negozio può tranquillamente prendere gratuitamente quello che occorre, può donare in cambio quello che magari a casa ha in più e vuole quindi regalare al negozio, oppure può partecipare alle nostre iniziative anche. Quindi ci auguriamo che poi mano a mano ci sarà il nostro gruppo, crescerà sempre di più in questo senso. Posso fare una domanda, quella stupida, proprio di quello stupido? Ho bisogno di farla. Ma se uno arriva e dice grazie mille, a me mi serve tutto, prendo tutto, viene lì con un camion, carica tutto quello che avete dentro, ringrazia, dice in cambio da un vecchio giornale del 1987 e va via. No, per evitare che passi io, diciamo. Essere aperti a tutti, no? Però è chiaramente che dobbiamo tutelarci nel caso di accaparramenti. Certo, quindi no, ma per questo la domanda era volutamente esagerata, però per capire come funziona. Abbiamo stabilito un numero massimo di 5 oggetti per persona. Ottimo, che mi sembra già abbastanza. Chiaramente insomma, sì. Poi sta al buon cuore, insomma, comprendere che comunque ci sono delle anche delle spese di gestione, ahimè, certo, da sostenere, e quindi è chiaro che magari la donazione, che però rimane libera e facoltativa, è ben diciamo accettata. Cioè uno magari si prende 5 oggetti che hanno anche un loro valore, ne ha veramente bisogno, e lascia comunque anche dei soldi, giustamente, per la gestione. Ma se non li lascia è nel nostro spirito. Non, certo Anastasia, no, però una domanda, un'altra domanda è questa, una curiosità che la gente si starà chiedendo: ma come fate a starci dentro coi soldi, l'affitto del locale e il lavoro delle persone? Le persone forse saranno volontarie, così almeno era a Bolzano. Sì, siamo l'affitto volontari e non riceviamo nessun compenso, perché noi ci siamo, a differenza di Passamano Bolzano, ci siamo costituiti in associazione di volontariato, mentre Passamano Bolzano è un'associazione di promozione sociale. E le spese vive, tipo le bollette? Beh, le spese vive intanto ci siamo autofinanziati. Va bene, quindi è proprio un'iniziativa tutta fatta da voi, autofinanziata. Sì. Benissimo, noi dobbiamo fermarci perché abbiamo ancora pochi secondi, dobbiamo ancora dare il risultato del concorso di oggi. Grazie Anastasia Magliulo. Grazie mille, complimenti. Passa mano alla Caserta. Buongiorno, bello, grazie. bello, domani l'appuntamento per l'apertura. Allora, vincono i biglietti per la mostra di Munch, a giudizio insindacabile della redazione, i racconti della bella notizia che vi ha cambiato la settimana. Massimo da Olbia, che dice stiamo lavorando, stiamo reagendo bene all'emergenza sarda, e io direi anche, questo è mio personale, Aurelio da Genova, che parlava di questo senso di unità che c'è nella situazione difficile, è un po' lo stesso messaggio, però qui il caso era quello dello sciopero dei trasporti, quindi insomma insieme si può reagire positivamente. Vincono ognuno due biglietti per la mostra di Munch, che è proprio a Genova, tra l'altro a Palazzo Ducale. Perfetto. Un saluto a tutti, un ringraziamento ad Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, Giorgio De Luca, Filippo Reggi. Basta, caro Gabardini, lasciamo lì, ci caro Gabardini, domani. Vi saluto io. Grazie e mille. Ci sentiamo a domani. Domani alle 8:30, buon sabato. Anche chi ci può fare. Basterebbe che i dirigenti nel pubblico impiego, la politica tutta, ma soprattutto i dirigenti e gli stipendi sopra i 4.000 euro al mese si potessero dimezzare. C'è 1,5 milioni di persone che percepiscono stipendi sopra 4.000 euro. Si potrebbe togliere anche solo 1.000 euro ciascuno per dare 1.000 euro in più a tutti quei pensionati che non superano 500 euro al mese, quindi raddoppiando la pensione portando a un minimo di 1.000 euro. E soprattutto gli esodati che non hanno nessun tipo di ammortizzatore e di sussidio al quale si può garantire 1.000 euro al mese. Basterebbe che chi ha di più dia a chi ha meno. Grazie.